Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia. Gentili ascoltatori, dalla Sura delle Donne ascolteremo ora i versetti 163, 164 e 165 dalla voce del fratello Giannati. Seguirà la traduzione in lingua italiana. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصص هم عليك ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصص هم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة

Afghanistan si schianta aereo cargo USA, morti 7 statunitensi. Iraq, 5 poliziotti uccisi mercoledì sera a nord di Baghdad. Buon giovedì signore e signori, iniziamo da una notizia riguardante il nostro paese. Gli Stati Uniti e oltre 30 dei loro alleati, tra cui la Gran Bretagna e le monarchie arabe, terranno esercitazioni militari congiunte nel Golfo Persico dal 6 al 30 maggio, secondo Press TV. Washington sostiene che l'obiettivo sia ottenere la capacità di neutralizzare le mine marine e proteggere le imbarcazioni commerciali, ma gli esperti politici russi spiegano che l'iniziativa è una provocazione contro l'Iran alla vigilia delle elezioni presidenziali del prossimo 14 giugno. I partecipanti alla cosiddetta esercitazione coniata contro misure contro le mine si riuniranno nella base navale americana del Bahrain. Per Gaidar Jamal, capo del Comitato Islamico Russo, le autorità USA sono certe che l'Iran non attaccherà mai nessuno, ma vogliono aizzare contro l'Iran i paesi arabi e isolarlo su scala regionale. Stanislav Ivanov, del Centro Russo per la Sicurezza Internazionale, spiega che l'esercitazione è una provocazione su scala globale, non è solo per mettere sotto pressione l'Iran ma anche un messaggio alla Siria. Ivanov ritiene inoltre che le esercitazioni militari mirino a incrementare la corsa alle armi nella regione, rendere costante la presenza in Medio Oriente delle forze straniere e alimentare nuovi conflitti nella regione. La Repubblica Islamica dell'Iran ha già annunciato in passato che ogni singolo sviluppo nel Golfo Persico viene controllato e monitorato e che Teheran non permetterà incursioni nel proprio territorio. Rimaniamo nella regione medio orientale. I gendarmi della monarchia del Bahrain e le forze dell'esercito saudita hanno aggredito con violenza inaudita le manifestazioni di mercoledì della festa del lavoro nel paese arabo. Secondo il corrispondente di Press TV, le forze del re hanno usato lacrimogeni per disperdere la folla scesa in strada per chiedere il ritorno al lavoro degli impiegati licenziati negli ultimi mesi per via della loro partecipazione alle proteste contro la monarchia. Dalla metà del mese di febbraio 2011, il Bahrain è teatro di proteste della gente che chiede la fine della monarchia della dinastia Al-Khalifa, monarchia sostenuta dalla Casa Reale dell'Arabia Saudita, ma soprattutto dagli Stati Uniti d'America. La giornalista russa Anastasia Popova, rientrata di recente dalla Siria, ha spiegato che non c'è dubbio sul fatto che l'attacco chimico ad Aleppo è stato opera dei gruppi opposti al governo siriano. La giornalista russa, che parlava alla rappresentanza diplomatica russa al Palazzo di Vetro dinanzi ai giornalisti internazionali, ha spiegato di aver assistito in Siria a esecuzioni sommarie, stupri di gruppo e a torture di vario genere effettuati dai gruppi armati ostili al governo contro la gente. La Popova ha spiegato che al tempo dell'attacco chimico ad Aleppo si trovava nella zona e dopo essere accorsa sul posto la gente raccolse, chiese alla gente del luogo e loro testimoniarono il fatto che era stato l'esercito libero a usare quelle armi. La giornalista russa ha concluso ricordando che i media, soprattutto Al Jazeera e la Reuters, falsificano sistematicamente le notizie sulla Siria. E mercoledì un aereo cargo americano si è schiantato al suolo in Afghanistan e tutti i 7 passeggeri di esso sono morti. Lo informano autorità afghane, che spiegano che lo schianto è avvenuto nelle vicinanze della base aerea di Bagram. Ignoti armati mercoledì sera hanno assassinato 5 poliziotti ad Al-Taremia, località nord della capitale irachena Baghdad, ferendo anche altre 9 persone. I malviventi hanno aggredito il commissariato di polizia della cittadina, uccidendo anche il capo della polizia. La rete All News France 24 sostiene che a dare l'assedio a 2 ministeri in queste ore in Libia siano gli uomini che ricevono ordine dall'Arabia Saudita e dal Qatar. Secondo la rete francese, l'obiettivo di questa operazione destabilizzatrice è quella di far uscire di scena Mahmoud Jibril ed altri personaggi democratici. Riyad Seydavi, ricercatore del Centro Ricerche ed Analisi Arabe della Svizzera, ha spiegato che le forze salafite wahhabite hanno come scopo quello di cancellare dalla scena politica del paese Jibril ed altri attori democratici e per far ciò citano come scusa il fatto che Jibril sia stato premier pure ai tempi di Gheddafi. Seydavi ha ricordato che numerosi responsabili libici hanno la stessa situazione e che fu proprio grazie alla loro collaborazione che il regime di Gheddafi crollò. Passiamo in Europa. Il neo premier italiano Enrico Letta ha incontrato ieri il presidente francese François Hollande dopo il colloquio avuto il giorno prima con la cancelliera tedesca Merkel. Al centro dell'incontro con Hollande le politiche europee e soprattutto l'obiettivo di mettere a punto un'intesa per la crescita da contrapporre alle rigide regole di austerità volute talvolta dai tedeschi. In seguito il premier Letta ha incontrato il collega belga e in serata il presidente del Consiglio europeo Van Rompuy, che in una nota ha promesso il pieno sostegno dell'UE all'Italia perché si possa perseguire l'impegno comune di superare la crisi economica e promuovere la crescita e il lavoro facendo pieno uso della flessibilità esistente e mantenendo allo stesso tempo l'obiettivo chiave del mantenimento di solide finanze pubbliche. Il Ministero degli Esteri russo ha riferito mercoledì che la Federazione ha deciso di stanziare 30 miliardi di dollari per lo sviluppo delle proprie attività nucleari entro il 2015. Secondo la comunicazione, buona parte dell'enorme budget verrà impiegato per il design di nuovi reattori. Sulla base di un piano di sviluppo per i prossimi 10 anni, Putin ha stabilito che la quota di energia elettrica nucleare prodotta debba passare dal 15 al 30% del fabbisogno nazionale. Ci spostiamo nel continente americano. Il presidente della Bolivia, Evo Morales, ha annunciato che l'agenzia USA per lo sviluppo internazionale, USAID, verrà espulsa dal suo paese per aver cercato di cospirare ai danni del popolo e del governo della nazione. Secondo l'IRIB, la dichiarazione è stata fatta ieri da Morales, che ha partecipato alle celebrazioni del 1° maggio nella capitale La Paz. Il presidente del paese dell'America Latina aveva precedentemente messo in guardia l'agenzia americana USAID, invitandola a non inserire nei suoi programmi piani politici e di occuparsi solo della sfera sociale, come dovrebbe effettivamente fare. Da Washington, il portavoce del Dipartimento di Stato, Patrick Ventrell, ha sostenuto che le accuse di Morales sarebbero infondate. Sempre ieri, durante il suo discorso, Morales ha anche criticato Kerry per aver definito l'America Latina il cortile di casa degli Stati Uniti, ricordando: gli Stati Uniti pensano probabilmente di poter manipolare politicamente ed economicamente nella nostra zona. Questo è qualcosa che appartiene al passato. Il ministro degli esteri cubano Bruno Rodriguez Parilla ha esortato gli Stati Uniti a chiudere l'infame prigione a Guantanamo Bay e di restituire la base militare a Cuba. Siamo profondamente preoccupati a proposito di questo limbo legale dove i diritti umani vengono atrocemente violati nella illegale base navale di Guantanamo, terra cubana usurpata dagli Stati Uniti, un centro di tortura e di morte di prigionieri sotto custodia, ha ricordato Parilla in un discorso al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite a Ginevra. Parilla ha ricordato che da 10 anni 166 uomini vengono tenuti nel carcere senza nessuna accusa di crimine, senza un legale e senza la minima garanzia della loro condizione di vita. Le dichiarazioni del ministro degli esteri di Cuba giungono mentre 130 dei prigionieri della spaventosa prigione sono in sciopero della fame. Washington: solo un americano su 10 è favorevole a un eventuale intervento armato degli Stati Uniti in Siria, e quanto rivela un sondaggio secondo il quale però la percentuale dei favorevoli salirebbe al 27% nel caso si accertasse che le forze di Assad hanno fatto uso di armi chimiche. I favorevoli, secondo l'indagine di Reuters Ipsos, sono il 10% contro un 61% di nettamente contrari. Ed infine notizie dal lontano est asiatico. La giustizia della Corea del Nord ha deciso di 15 anni di lavori forzati per Kenneth Bae, il cittadino americano arrestato per lo spionaggio ai danni del governo della nazione. Le autorità del Bangladesh hanno annunciato che il bilancio delle vittime del crollo della fabbrica verificatosi la settimana scorsa è salito a 411, mentre l'Unione Europea ha minacciato sanzioni economiche contro il paese dopo il più grande disastro industriale della nazione asiatica. Il nuovo ceppo dell'influenza aviaria, che ha già ucciso 24 persone in Cina, costituisce una minaccia grave per l'uomo, che va presa molto seriamente, lo dice un responsabile dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo cui l'H7N9 è uno dei virus letali. L'OMS considera questa una minaccia grave, ha detto da Londra John McKelley, direttore di un centro di ricerca che lavora per l'agenzia ONU. Gentili ascoltatori, il 30 aprile ha fatto la sua visita in Italia il presidente del regime sionista Shimon Peres. Ci ha inviato un resoconto a proposito del nostro corrispondente a Roma, Hamid Masmenejad, che testimonia soprattutto una protesta da parte degli attivisti pro-palestinesi a Roma, protesta che è stata sottaciuta dai media italiani. Ascoltiamo insieme il resoconto e ricordo che il file video di questo resoconto è disponibile sul nostro sito internet. Al Presidente della Repubblica di Israele. No, al momento no. Al momento no. C'è un'autorizzazione, scusate un attimo. La possiamo chiedere. Però non ce lo levate per cortesia. No, non ce lo togliamo, soltanto un attimo per cortesia. Solo una. Però guardi, era soltanto per un rapporto di pace con la Palestina, oggi che si va a fare. Noi siamo in avvio. Oggi 30 aprile, martedì, è il giorno in cui Shimon Peres, come primo capo dello Stato straniero, va in visita a Papa Francesco nella sua qualità di capo della città del Vaticano. E noi siamo qui perché vogliamo ricordare a Papa Francesco che c'è una tragedia in Palestina, c'è un nuovo calvario di un intero popolo oppresso dall'occupazione israeliana e vorremmo tanto che il Papa ricordasse questo martirio e ne parlasse con Shimon Peres, che proprio in questo momento probabilmente sta entrando nelle stanze vaticane, perché il suo corteo è passato pochi minuti fa attraverso questa strada che è Via della Conciliazione. Via della Conciliazione è una strada storica di Roma, e segna, è intitolata la conciliazione fra lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica. Noi vorremmo però che questa conciliazione ci fosse per il mondo intero, non solamente per la Chiesa Cattolica e lo Stato italiano, ma per esempio anche fra il popolo palestinese e il popolo israeliano. Ma questo sarà possibile solo se Israele recederà dalla sua politica razzista e coloniale e recederà dall'occupazione illegittima che centinaia ormai di risoluzioni dell'ONU hanno dichiarato illegittima, invitando lo Stato di Israele a liberare i territori occupati. Noi siamo qui perché vorremmo che il Papa ricordasse questo obbligo dello Stato israeliano di lasciare libero il popolo palestinese. Oggi siamo qui per ricordare come quotidianamente il popolo palestinese soffre. Cosa possiamo aspettarci oggi da questo incontro? Bisogna rilevare che è il primissimo capo di Stato che Papa Francesco riceve in veste politica, quindi noi che abbiamo a cuore la causa palestinese, la sofferenza di tutti i palestinesi dei territori occupati e della striscia di Gaza, ci auguriamo di cuore che da questo colloquio possa realmente uscire un qualche cosa che possa condurre ad un rapporto di reale, voluta, sentita pacificazione. Non so quanto la presenza di Shimon Peres oggi possa preludere a questo. E la nostra paura è che dietro a questo colloquio, che il mondo, i media vivono come una voglia grande da parte dello Stato di Israele di fare di tutto e di più per arrivare ad una pace duratura e convinta, nasconda in realtà una richiesta di appoggio e di supporto di Israele anche da parte della città del Vaticano e quindi da parte di Papa Francesco, che per ora si è sempre espresso dalla parte degli oppressi e quindi anche dei palestinesi, ne ha anche parlato a qualche Angelus fa, ma in cuor nostro abbiamo questo piccolo dubbio, speriamo che non sia così. Yalla Free Palestine, sempre. Hamid Masmenejad, Città del Vaticano. Cari amici, termina qui il notiziario di oggi, a tra poco con i due commenti di oggi. UNICEF, bambini palestinesi nelle carceri militari israeliane. Un rapporto dell'UNICEF denuncia i maltrattamenti molto diffusi, sistematici e istituzionalizzati cui sono sottoposti i minori palestinesi rinchiusi nelle carceri israeliane. A differenza dei loro omologhi israeliani, i bambini palestinesi non hanno il diritto di essere accompagnati dai genitori durante un interrogatorio e sono raramente informati dei loro diritti. Il test di una democrazia sta nel trattamento riservato ai detenuti, alle persone in carcere e in modo particolare ai minori, dichiarava nel gennaio 2012 Mark Regev, portavoce del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Un recentissimo rapporto dell'UNICEF, basato su oltre 400 casi documentati di detenzioni e maltrattamenti di giovani detenuti, mette in dubbio il livello di democrazia esistente in Israele. Il rapporto dell'UNICEF conclude che i minori palestinesi che entrano in contatto con il sistema di detenzione militare israeliano sono sottoposti a maltrattamenti molto diffusi, sistematici e istituzionalizzati. Quanto descritto si basa sulle ripetute denunce avvenute nel corso degli ultimi 10 anni sulla loro entità, fondatezza e persistenza. Tale conclusione è sostenuta anche dall'esame dei casi documentati attraverso un sistema di monitoraggio e reporting di gravi violazioni dei diritti dei bambini, così come dalle interviste condotte con avvocati israeliani e palestinesi e con bambini palestinesi. Negli ultimi 10 anni circa 7.000 minori palestinesi di età compresa tra 12 e 17 anni sono stati arrestati, interrogati, perseguiti e o imprigionati all'interno del sistema di giustizia militare israeliana, una media di 700 bambini l'anno, 2 al giorno. L'analisi dei casi monitorati da UNICEF ha identificato esempi di pratiche che equivalgono a trattamenti crudeli, inumani o degradanti secondo la Convenzione sui diritti dell'infanzia e la Convenzione contro la tortura. Il rapporto UNICEF conclude raccomandando una serie di misure concrete per migliorare la protezione dei bambini all'interno del sistema giudiziario israeliano in linea con le norme internazionali vigenti. Non è la prima volta che organismi internazionali denunciano il maltrattamento di bambini palestinesi detenuti dall'esercito israeliano. Preoccupazioni in merito erano state sollevate nel luglio 2012 dalla Commissione Speciale delle Nazioni Unite sulle pratiche israeliane nei territori occupati. Secondo le testimonianze raccolte, Israele pratica l'isolamento nel 12% dei bambini palestinesi detenuti, aveva affermato in un comunicato stampa il presidente della commissione, l'ambasciatore Palisa Kohona dello Sri Lanka. La commissione speciale aveva anche messo in guardia su un modello di detenzione e maltrattamenti dei bambini di più vasta portata. La fiducia arriva dagli USA. Enrico Letta ha ricevuto la fiducia, quella del segretario di Stato USA John Kerry, che ancora prima che lo votasse il Parlamento italiano si è congratulato per la nascita del nuovo governo. Fiducia ben meritata, Enrico Letta garantisce John Kerry, è un amico buono e fidato degli Stati Uniti che ha dimostrato in tutta la sua carriera un fermo impegno nella nostra partnership transatlantica. Il governo Letta, sottolinea Kerry, assicurerà il proseguimento della nostra stretta cooperazione su molte pressanti questioni in tutto il mondo, e quindi il segretario di Stato USA è a trattare un tema fondamentale che i partiti italiani hanno cancellato dal dibattito e dai programmi con cui si sono presentati gli elettori, la politica estera e militare dell'Italia. Il perché è chiaro. PD, PDL e Scelta Civica hanno su ciò la stessa posizione. Possiamo dunque essere sicuri che l'Italia continuerà ad essere base avanzata delle operazioni militari USA-NATO in Medio Oriente ed Africa. Dopo la guerra alla Libia si sta conducendo quello in Siria, mentre si prepara l'attacco all'Iran. E in Baraba il trattato di non proliferazione resteranno sul nostro territorio, il territorio italiano, cioè le bombe nucleari che gli USA hanno deciso di potenziare. Allo stesso tempo l'Italia continuerà ad inviare forze militari all'estero, anche in Afghanistan, dove la NATO manterrà propri contingenti dopo il ritiro nel 2014. Qui terrà la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Cari amici, ora ascoltiamo insieme la rassegna stampa iraniana. Salve cari amici, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi giovedì 2 maggio 2013. Partiamo subito dal giornale Kayhan. Sulla prima pagina la foto della guida suprema, il suo Ayatollah Khamenei, durante un discorso importante che il leader si è rivolto all'Occidente e all'uso, alla strumentalizzazione della donna nella cultura occidentale, una dura condanna da parte della guida suprema iraniana a questa cultura, perché secondo il leader non solo è un grave danno, è un grave peccato imperdonabile nei confronti della donna, ma anche nei confronti un danno irreparabile nei confronti della società, perché secondo l'Islam la donna è al centro del nucleo familiare e quando viene danneggiato l'aspetto della donna, delle mamme, quindi anche la famiglia sarà danneggiata e infine questo danno sarà diffuso anche in tutta la società umana. Poi per quanto riguarda la pagina estera, giornale Kayhan dà la notizia della tragedia dei musulmani in Myanmar, ex Birmania. I buddhisti appoggiati dal governo hanno dato al fuoco a centinaia di abitazioni, hanno raso al suolo le moschee, hanno ucciso diversi musulmani nel frattempo la comunità internazionale resta indifferente davanti al massacro dei musulmani, a questa palese violazione dei diritti umani in un angolo del mondo, mentre tutta l'attenzione della comunità internazionale è concentrata sulla Siria contro un gruppo di mercenari che stanno combattendo contro un governo legittimo. Ecco, questo è il commento del giornale Kayhan. Passiamo al giornale Resalat, che dà la notizia delle affermazioni del leader di Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah: la resistenza islamica ha la mano sul grilletto, diretto avvertimento verso Israele. Nasrallah, dopo aver smentito l'accusa di aver lanciato il drone che ultimamente ha sorvolato il cielo della Palestina occupata, ha detto a Israele, ha messo in guardia l'entità sionista dalle provocazioni contro paesi regionali, ha detto che Hezbollah non perdonerà un'altra mossa sbagliata, cioè un eventuale attacco da parte di Israele contro altri paesi, soprattutto la Siria, che Hezbollah si sente molto vicino al governo di Bashar Assad. Giornale Etemad, il ministro degli esteri Ali Akbar Salehi: la politica dell'Iran circa la Siria è contribuire alla formazione di un governo di convergenza, un governo formato da tutti i gruppi politici, da tutti i gruppi etnici religiosi della Siria, ma prima, ha affermato Salehi, bisogna fermare lo spargimento del sangue e le violenze in questo paese. Passiamo al giornale Jome Jam. La Siria ha mandato una lettera al Consiglio di sicurezza, ha chiesto all'ONU di reagire in maniera determinante nei confronti dei gruppi terroristi che continuano a provocare danni e anche a uccidere la gente ultimamente, come ha denunciato il governo siriano, hanno utilizzato per la seconda volta arma chimica contro i civili, questa volta contro un villaggio vicino a Idlib. Passiamo al giornale Hamshahri, che dà la notizia di una notizia interessante. Il premier francese ha chiesto ai membri del gabinetto di non utilizzare le espressioni inglesi durante le sue conversazioni. E poi la collaborazione nucleare tra il Giappone e Arabia Saudita. Il giornale Shark scrive che Al-Qaeda è in coma dopo 2 anni di morte, che passa dalla morte di Bin Laden. Le attività di Al-Qaeda stanno andando verso la fine, come scrive Shark, ma l'appoggio segreto degli Stati Uniti e dei loro alleati alle azioni terroristiche, secondo Shark, continua a questo appoggio a minacciare la pace mondiale. Giornale Jumhuri Islami, l'avvertimento dell'Arabia Saudita, Riyadh ha detto di aver messo in guardia il governo americano circa i due fratelli ceceni che, secondo Washington FBI, sono coinvolti nelle bombe di Boston. Questo è quanto dice il governo saudita. E per finire, il giornale Telahat, le manifestazioni contro le misure di austerity in tutta l'Europa, in Inghilterra, in Cipro e in Grecia, anche in Turchia e a Mosca. E dall'altra parte, in Asia, i cortei di milioni di lavoratori in occasione della giornata del 1° maggio hanno chiesto miglioramento delle condizioni di lavoro. Poi i funerali dei martiri palestinesi caduti durante gli ultimi raid aerei di Israele. La popolazione assediata, dell'enclave assediata, hanno chiesto la vendetta. Questo è il titolo del giornale Jumhuri Islami. Tutta per la nostra rassegna stampa di oggi, grazie per l'attenzione, a risentirci. Noi ed i radioascoltatori. Bismillahirrahmanirrahim, in nome di Dio, il clemente e il misericordioso. Buongiorno gentili ascoltatori, di nuovo siamo noi, i vostri amici di Teheran, e vi diamo il benvenuto ad un altro appuntamento con la rubrica Noi ed i radioascoltatori. A tra poco. Amici, salve, di nuovo siamo noi, i vostri amici da Teheran, e anche oggi abbiamo con noi, come la puntata precedente, Davood, che infatti ha lasciato questo lavoro, ha trovato un lavoro con lo stipendio ancora più elevato, e lo salutiamo. Buongiorno. Allora, buongiorno a tutti, non so se mi sentite, intanto sì. Non è vero che lo stipendio è più elevato, cioè in realtà non lo so, non ho ancora preso il primo stipendio qui, perciò non so come vanno le cose, spero naturalmente che sia più elevato. Allora, certamente, comunque ti speriamo bene, speriamo che sia almeno migliore. Speriamo, grazie. Allora, io saluto tutti gli amici e le amiche, spero che stiano attraversando dei bei momenti, soprattutto in questa stagione, almeno la stagione è bella, no? Vabbè che bellissima, non è che è bella solo. Vabbè che siamo in un momento no in tutti i sensi, in tutti gli altri sensi, però almeno la natura ci sorride. E no, la natura ci sempre sorride, siamo noi che qualche volta non possiamo capirlo. Certo, cioè ci sorride anche in inverno, però sì. Vabbè, ora ci sorride più chiaramente, no? Ora con... ci sorride con i fiori, nell'inverno ci sorride con la neve. Con la neve, certo. Poi, che ne so, quando arriva un terremoto ci sorride con il terremoto, no? Per la Terra il terremoto è molto utile, però la Terra non pensa, certo, alle persone che, certo, abitano sopra. È utile anche per te, Shima, lo per sai? Me? In che senso? Il terremoto, certo, è molto utile. Così lascerò questo brutto mondo. No, per mandarti sottoterra. Ah, come il viaggio sotto la Terra di Jules Verne, no? No, vabbè, lasciamo stare. Allora, dai, rispondiamo ai messaggi. Passiamo al nostro lavoro. Che sono impazienti, certo. Appunto. Prego. Prima di tutto è un rapporto di ascolto del nostro amico Gianangelo Rosati, vediamo la data, del 21 aprile 2013. È un rapporto d'ascolto dettagliatissimo. Però penso che il programma serale, se non mi sbaglio, lui, certo, ha ascoltato il nostro programma serale. Programma serale che, amici, una, vabbè, ancora mezza buona notizia è che stiamo cercando di, in qualche modo... Allungarlo? Sì, allungarlo da mezz'ora a un'ora, non ci siamo ancora riusciti, ma io ho buoni motivi per pensare che un giorno ci riusciremo. Anche questo realizzeremo, comunque un giorno. Gabriele Licitra dice: un nostro amico su Facebook ci ha mandato un messaggio di condoglianza per i forti terremoti precedenti. Cioè, questo amico si chiama Gabriele Licitra. No, Gabriele Licitra, ti spiego, ma perché, com'è che hai la memoria così corta, Shima? Ma che dici? Che stai dicendo? No, perché Gabriele Licitra lo conosciamo, guarda, è il nostro amico. No, è il messaggio che sto leggendo, non è che io ho dimenticato. Lo so, ma Gabriele, dici un amico, Gabriele non è un amico, Gabriele Licitra è l'amico che è professore di botanica, sì, se non sbaglio, è dei dintorni di Catania, Ragusa, quella zona lì dell'Italia. Sì, e io niente, lo conosco, però qui è scritto così. Un nostro amico su Facebook ci ha mandato... Ah, lui ha scritto così, certo, sì, perché io non vedo ora cosa ha scritto lui. Ok, sì, è scritto così. Okay. Poi lui dice: mi dispiace, faccio le condoglianze al popolo iraniano. E appunto a proposito del terremoto che di recente ha colpito purtroppo le zone meridionali del nostro paese, è veramente... Certamente, ma anche meridionali, centrali, un po' da tutte le parti, però c'è una cosa che bisogna sempre ringraziare Dio. A confronto con altri terremoti che ci sono stati nel nostro paese, come quello disastroso di Bam del 2003, sono stati terremoti di portata minore, hanno fatto, oppure quello dell'anno scorso in Azerbaigian, hanno fatto vittime molto minori, danni anche... Quante persone hanno perso la vita? Sono state poche persone. Sì, pochissime. E poi i danni materiali sono stati minori, perciò, insomma, naturalmente condoglianze alle famiglie delle vittime, a chi magari ha perso tutto quello che aveva, però ringraziamo anche il cielo, perché quando le dimensioni di queste tragedie naturali, catastrofi naturali sono minori, insomma anche il governo può rispondere meglio a queste tragedie e provvedere a nuovi alloggi e nuove sistemazioni per le persone colpite dal terremoto. Ma figuriamoci se per esempio succedesse a Teheran, mamma mia. Ci sarebbe una vera... bisogna vedere di che magnitudo, però in ogni caso... sarebbe un disastro, non importa però il magnitudo, comunque... No, come non importa il magnitudo? No, va bene, due o tre vanno bene, però oltre cinque, certamente provocheranno danni. Iniziamo a fare, sì, vabbè. Comunque, ci auguriamo basta che con il terremoto. Non ci siano terremoti da nessuna parte del mondo, appunto, anche se sappiamo che è impossibile, ci saranno. E perciò niente, un po' di musica per cambiare aria, sì. Allora, hai dimenticato che ieri in Iran gli iraniani hanno festeggiato, hanno commemorato una importantissima giornata. Non me lo sono dimenticato, ma visto che ora stai tu lì, ti tuffi tu nel calendario, no? Purtroppo davanti a me non c'è il calendario, però ieri è stata la giornata per la mamma, per la donna. Certo, la giornata per la... La giornata nazionale donna. Però. Certo, nazionale per la donna in Iran che corrisponde... Con la nascita... della figlia del profeta dell'Islam, Fatima, la pace sia con lei. E niente, noi naturalmente, come anche in Italia, portiamo alle nostre mamme fiori, regali, alcuni che sono un po' ancora all'antica, vanno a baciare la mano della mamma. Perché antichi? Sono un po' antica, ma che dici? Anche oggi è possibile, non si tratta solo di quelli che sono però antichi. Dai, le ultime generazioni, i giovani di oggi, queste cose le fanno di meno. Va bene, non baciano le mani, però baciano la faccia, che differenza? Certo, cioè, no, appunto, anch'io non sto dicendo che le giovani generazioni non vogliono bene alla mamma. Sì. Dico che come tradizioni popolari, mm-hmm. in passato si baciava la mano alla mamma in queste occasioni, no? Ora sì, si bacia la faccia, le guance, sì, certamente. Poi, tipo ora, per darvi un'idea, io magari sono quello che vado anche a baciare la mano, Shima, visto che è più piccola, sì? Piccolissima, Le guance. Poi, niente, soprattutto... Non è che però, una cosa abbiamo dimenticato, non è che solo le mamme ricevono i regali, anche le donne, no? Certo, anche le donne, le sorelle, le mogli, le fidanzate, non so, le... No, però basta. Finora io non ho ricevuto nessun regalo, vedete che mondo è. E si vede che non sei nessuna di queste cose qui. Come? No, lasciamo stare. Basta no, musica. Basta così. No, un'altra cosa bella che vogliamo raccontare, sì, è che le donne vengono premiate anche in tutti gli uffici. Premiate, sei sicuro? Qui, certo, nel nostro ufficio, certo. Non succede. E tu non hai ricevuto, scusa, per la festa un premio su misura, scusa. No, non ho ricevuto niente. Ma non dire bugie. No. No, guarda che l'hai ricevuto. Non qui lo vuoi, non succede, non succede mai nessun miracolo. Comunque. No, che miracolo, no, questo lo dico sul serio. Vabbè. Ora, no, sì, tu non... hai ragione. Certo, per le persone che sono impiegate, ora magari tu non hai un contratto fisso, no. Per le impiegate di sesso femminile ci sono in queste occasioni anche, non so, dei specifici premi. Sì, hai ragione. Ci sono anche in diversi uffici, feste, si fanno anche dei festeggiamenti. Ci offrono i dolci almeno oggi. Certo, quello sì, si fanno festeggiamenti anche nelle moschee, nei luoghi religiosi. E naturalmente, cosa che per me è molto importante, che consiglio anche ai giovani, non so, alle persone che in qualche modo sentono questa ricorrenza, è di andarsi a studiare la storia della vita di Fatima, le cose che ha fatto e il motivo per cui noi festeggiamo la sua nascita, perché vabbè, ora al di là dei festeggiamenti, mangiare dolci, queste cose qua, è importante capire certe cose, trarre anche conoscere il suo carattere. E appunto io pensavo che purtroppo questa figura spirituale è così importante nell'Islam è un po' poco conosciuta, purtroppo, cioè della sua vita purtroppo oggi, cioè i giovani dico ora poco conosciuta, magari no, però ci sono d'accordo, no, tra i giovani dico, ma anche tra i giovani, non che poco conosciuta, ma non è conosciuta al punto che si meriterebbe, sì, certamente. Come si deve. Va bene, la musica. Certo. Ci dicono la musica. Abbiamo solo un minuto per finire. Leggo subito e velocemente un messaggio di RG, però non lo so qual è il suo vero nome. Cari amici, nell'apprendere della grande sciagura che ha colpito il vostro paese, voglio esprimervi i miei più sinceri sentimenti di solidarietà. Che Dio misericordioso vi protegga nella speranza di potervi sentire al più presto con buone nuove notizie. Voglio porgere vostro tramite un caloroso saluto ed un forte incoraggiamento al popolo iraniano. A presto, RG. Ringraziamo. Dal modo di scrivere, dalle iniziali, credo sia Rosati Gianangelo. Poi? Poi abbiamo tempo per leggere? Sì, poi ancora, aspetta. Un altro amico, cioè Daniele Martinotti, ancora a proposito del terremoto, scrive: spettabili redazione italiana, il mio più sincero cordoglio alle vittime del terremoto e per il disagio arrecato alle popolazioni colpite dal sisma. Qui in Italia dobbiamo ancora rimarginare le ferite causate dal terremoto che ha colpito proprio in Alpite in aprile il nostro paese. In aprile 2009 il nostro paese, la regione Umbria. Distinti saluti, Daniele Martinotti. Allora, visto che siamo in tema, io mandiamo un grandissimo saluto agli amici, gli ascoltatori che ci ascoltano dall'Aquila, dai dintorni. Speriamo sinceramente che anche per loro finalmente una sistemazione migliore possa arrivare, visto che diverse notizie giungono a proposito del fatto che ancora la questione non è stata risolta del tutto. E ringraziamo anche i nostri amici che ci hanno inviato il loro messaggio di solidarietà e speriamo che non succeda più i terremoti. Allora amici, prima di tutto devo correggere il mio errore su non succedano e poi dobbiamo salutare. Come sempre l'indirizzo a cui potete inviarci le vostre lettere: Islamic Republic of Iran, External Service, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran. E poi inviate le vostre email a questo indirizzo italian.irib@gmail.com. Davud, non vuoi salutare? A presto e grazie. Alla prossima. Ed in conclusione vi ricordiamo il riassunto delle principali notizie di oggi. Prove di guerra, manovre militari di USA ed oltre 30 alleati nel Golfo Persico per i russi e provocazione contro Iran. E i gendarmi della monarchia del Bahrain e le forze dell'esercito saudita hanno aggredito con violenza inaudita le manifestazioni di mercoledì della festa del lavoro nel paese arabo. La giornalista russa Anastasia Popova, rientrata di recente dalla Siria, ha spiegato che non c'è dubbio sul fatto che l'attacco chimico ad Aleppo è stato opera dei gruppi opposti al governo siriano. E mercoledì un aereo cargo americano si è schiantato al suolo in Afghanistan e tutti i 7 passeggeri di esso sono morti. Ignoti armati mercoledì sera hanno assassinato 5 poliziotti ad Al-Taremia, località a nord della capitale irachena, Baghdad, ferendo anche altre 9 persone. La rete All News France 24 sostiene che a dare l'assedio a 2 ministeri in queste ore in Libia siano gli uomini che ricevono ordini dall'Arabia Saudita e dal Qatar. Il neo premier italiano Enrico Letta ha incontrato ieri il presidente francese François Hollande dopo il colloquio avuto il giorno prima con la cancelliera tedesca Merkel. Il ministro degli esteri russo ha riferito mercoledì che la federazione ha deciso di stanziare 30 miliardi di dollari per lo sviluppo delle proprie attività nucleari entro il 2015. Il presidente della Bolivia, Evo Morales, ha annunciato che l'agenzia USA per lo sviluppo internazionale verrà espulsa dal suo paese per aver cercato di cospirare ai danni del popolo e del governo della nazione. Il ministro degli esteri cubano Bruno Rodriguez Parilla ha esortato gli Stati Uniti a chiudere l'infame prigione a Guantanamo Bay e di restituire la base militare a Cuba. Solo un americano su 10 è favorevole ad un eventuale intervento armato USA in Siria. Cari amici, i nostri programmi sono terminati, ma potete seguirci 24 ore su 24 sul nostro servizio di informazione sul sito italian.irib.ir. Visitate anche le pagine di Radio Italia IRIB su Facebook, Twitter e YouTube. Grazie per l'attenzione e buona giornata.